edizione. Le 6, 16 minuti e 45 secondi, di nuovo una buona giornata da Simone Spezia. Prima di dare la linea alla viabilità, ci ritroveremo subito dopo per fare un punto sulle prime pagine dei quotidiani. Oggi in edicola una notizia che arriva dalla Siria. Due grandi sobborghi di Damasco sono stati bersaglio nella notte di duri bombardamenti da parte dei carri armati del regime. Naturalmente, lo precisiamo, le fonti in questo caso sono gli oppositori. L'altra notizia riguarda il blitz che ha riguardato che sta riguardando Tolosa, poi aggiorneremo naturalmente più avanti. A quanto pare il sospettato è di origine afgano-pakistana, appunto è legato ad Al-Qaeda, starebbe per scattare il blitz vero e proprio, si sono sentiti 6 o 7 colpi di arma da fuoco durante l'operazione. Aggiornamenti più avanti naturalmente, la viabilità ora e ci ritroviamo subito dopo. Prima edizione. Ed eccoci dunque per fare un punto su quello che troviamo oggi sulle prime pagine dei quotidiani. Inizierei in una giornata come questa, da quello che è forse il più completo dal punto di vista dell'analisi e la riforma del mercato del lavoro, dedica tra l'altro uno speciale di 6 pagine, ed è Il Sole 24 Ore. Titolo principale è articolo 18, addio per tutti e no CGIL, Monti a nessuno il potere di veto, la regola generale diventa l'indennizzo. Sugli altri titoli dedicati alla questione c'è la riforma degli ammortizzatori sociali, dote da 1 miliardo e 700 milioni di euro, in vigore dal 2017, e poi il dizionario, presente il dizionario Il Sole 24 Ore, dai contratti all'assicurazione sociale per l'impiego, come cambia l'occupazione con le nuove misure, quindi molti dettagli. Il Sole 24 Ore presenta anche un servizio richiamato in prima pagina su quello che poi dallo stesso Monti è stato definito l'altro pilastro di questa serie di riforme, che è la riforma delle pensioni. C'è una guida alle pensioni delle donne, quando si può uscire a 57 anni. Interessante gli altri due temi che porta in prima pagina Il Sole 24 Ore, naturalmente lo scontro sul decreto liberalizzazioni, del quale vi abbiamo parlato anche poco fa all'interno del giornale radio, e poi questa vicenda che riguarda Pechino, la Cina. Cina, lotta di potere, economia infrenata, e all'interno c'è anche un'analisi di Martin Wolf. A proposito della riforma del mercato del lavoro, da segnalare l'editoriale firmato da Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore: la partita della flessibilità è infranto il grande tabù, o quando per grande tabù ci si riferisce naturalmente all'articolo 18. C'è anche un'analisi politica firmata da Stefano Folli, la terza via del Premier. Il Corriere della Sera presenta naturalmente l'apertura sulla riforma del mercato del lavoro e sull'articolo 18. Un commento di Dario Di Vico intitolato I veti fuori dal tempo, e Dario Di Vico dice scrive tra le altre cose la concertazione, che pure non dimentichiamo era stata definita come la nostra costituzione materiale, ieri è andata in pensione. Davanti all'incapacità dei sindacati di presentarsi a Palazzo Chigi con una proposta credibile, una piattaforma capace di delineare un nuovo tipo di scambio all'altezza delle sfide che si devono affrontare in un'economia integrata, il governo Monti alla fine ha tirato dritto. Questo un brano naturalmente dell'editoriale di prima pagina di Dario Di Vico. Da segnalare sempre sul tema del mercato del lavoro, e ve lo segnaliamo perché c'è una certa coincidenza nell'analisi, quella del vice direttore di Repubblica Massimo Giannini, sul suo quotidiano naturalmente, sulla fine della concertazione. C'è la fine, dice Giannini, di una costituzione materiale che dal 92 ha affiancato la costituzione formale nelle fasi più acute acute della crisi italiana, quindi una sorta di identità di vedute della concertazione come sorta di costituzione materiale. Restiamo sul Corriere della Sera, però altre due vicende e questioni interessanti. Un'altra vicenda interessante riguarda il rapporto sulla malasanità, un pezzo di firma di Fiorenza Sarzanini, un degrado in corsia e truffe inflitte 1800 sanzioni penali, si parla di un anno di controlli dei NAS negli ospedali italiani. E altra vicenda interessante, il ministro Balduzzi, il ministro della sanità, e il fenomeno del milione di scommettitori cosiddetti ludopatici, i giocatori d'azzardo in cura alle ASL. Coloro che soffrono di ludopatia saranno presto curati dal Servizio Sanitario Nazionale, lo ha garantito appunto il ministro della salute Renato Balduzzi. Eravamo su Repubblica, ebbene riprendiamo Repubblica per altre due vicende. La prima a centropagina è quella che riguarda il processo per la vicenda Ruby, per chi se la ricorda ormai a questo punto, sembra passata un'era geologica, naturalmente in realtà non è così. Ruby, ecco le telefonate di Berlusconi in questura, non una ma quattro in 20 minuti per far liberare la ragazza. A proposito dei temi di corruzione, dei quali stiamo ampiamente trattando in questi giorni e che vengono da varie parti, o di sospetta corruzione nella fattispecie, si parla della questione politica che riguarda il sindaco del PD Emiliano, il sindaco di Bari Emiliano. Ebbene, il PD scarica il sindaco Emiliano per il dopo Vendola, candidatura bruciata dall'inchiesta, mentre spuntano nuove intercettazioni. Da segnalare che se sulla vicenda di Tolosa, naturalmente rispetto agli eventi che vi stiamo raccontando in questa mattinata, ossia il blitz che si sta svolgendo delle forze speciali a Tolosa, c'è un sospettato di Al-Qaeda che è stato circondato e si sta probabilmente quasi procedendo all'arresto. Se i giornali sono così, Repubblica riporta un'altra storia, quella lista antisemita sul web nel mirino 163 professori, il tutto affiancato da un commento di Barbara Spinelli, il male oscuro dell'Europa. La Stampa, articolo 18, questione chiusa, il titolo principale, con due analisi, anche qua una politica, una che riguarda di più il mercato del lavoro, quella politica è a firma di Marcello Sorgi, la sincerità dei partiti alla prova, e quella di Paolo Baroni, ma il governo ha superato i vecchi tabù. Segnaliamo altre due storie, il piano della provincia di Como, 80 cecchini contro i piccioni, la guerra dell'assessore Colombo, fanno troppi danni all'agricoltura, gli ambientalisti, sarà uno sterminio. Titolo dedicato anche alla Juventus, Super Vucinic, Juve in finale, questo è il titolo della Stampa. E un Massimo Gramellini che oggi firma il suo buongiorno dedicato al fatto che solamente due deputati, l'UDC Roberto Rao e l'ex PDL Mario Pepe, hanno soldi investiti nei titoli di Stato italiani. Cambia l'articolo 18, è il titolo del Messaggero, anche qua naturalmente ampio spazio alla riforma del mercato del lavoro. Vediamo la parola tabù ricorrere spesso, in questo caso nell'editoriale firmato dal nostro Oscar Giannino, fine di un tabù italiano. E da segnalare che il Messaggero già si interroga, come probabilmente stanno facendo molti, soprattutto all'interno del partito, sulla posizione che dovrà prendere il Partito Democratico. Il Premier e le spine a sinistra. Bersani terrà unito il PD, di Alberto, a firma di Alberto Gentili. In realtà è di fatto un retroscena su quel che dice Monti e evidentemente su qualche preoccupazione che era circolata e che probabilmente circolerà anche per i prossimi giorni per quanto riguarda il Partito Democratico. Forte anche il titolo sulle liste antisemite sul web da parte del Messaggero, che però ci riporta anche una notizia che arriva da Città del Messico: il terremoto scuote Acapulco, sisma di magnitudo 7.6, paura anche a Città del Messico. Vi segnaliamo anche una storia romana, testaccio, la guerra di quartiere tra fruttivendoli e market biologici. Vi riportiamo anche come dire, un altro paio di quotidiani per quanto riguarda il quello che è la riforma del mercato del lavoro e non solo. Il titolo dell'Unità è lo strappo di Monti, il Premier non cerca l'intesa, niente più reintegro nel caso di licenziamento per motivi economici, mentre invece Libero titola Ammazza Italia, impantanati sull'articolo 18, come vedete, visioni ampiamente differenti. Prima edizione. Le 6.35 minuti e 56 secondi, le 6.36 minuti, è il momento di Italia in controluce. Italia in controluce. Una buona giornata da Alessandra Tedesco. Default o salvataggio in extremis? I greci, anche quelli che vivono in Italia, si interrogano sul futuro del paese. Ce ne parla Daniela Binello. Legomaste sinthetes. Γιατί sinthetes γινόμαστε επειδή παίρνουν μουσικά στοιχεία που είναι διαφορετικά μεταξύ τους ή και αντίθετα μεταξύ τους και τα συνθέτουμε, τα κάνουμε ένα. Dice che i compositori musicali si chiamano in greco è synthetes, compositori, la di compongono, mettono insieme pezzi diversi, a volte anche in contraddizione tra loro. Quindi loro sono compositori, cioè quelli che mettono in armonia. Questa cosa la politica non la sa fare. Savvopoulos per i greci è un mito, come Theodorakis. Il poeta che canta, come viene chiamato in Grecia, Dionysis Savvopoulos, ha raccolto intorno a sé, in un concerto romano, la comunità ellenica che vive in Italia. Savvopoulos, che per quelli della sua generazione, con le sue canzoni, è stato un simbolo della resistenza contro i colonnelli, oggi, di fronte al fallimento economico, dice che non ha più nulla da trasmettere con la musica se non il suo lutto. Sta dicendo che è sicuro che i greci saranno più poveri, ma che questo è comunque un problema minore rispetto al sangue versato in Albania e quindi se ne uscirà. Yorgos Petritis, da Volos, la sua città d'origine, cosa le dicono i suoi amici? Mi hanno detto che al pubblico gli stipendi sono diminuiti del 25% circa, al privato la metà, sui 12-13%. Le piccole botteghe chiudono tutte, rimangono i grossi supermercati, i quali, se continua così la situazione, chiuderanno anche questi. Cioè i prezzi delle alimentari, diciamo, gli alimentari sono aumentati di tanto, però soltanto quello che è importato, il resto è rimasto ai livelli precedenti, perché sono prodotti locali, insomma, ecco. Però uno stipendio medio in Grecia, uno stipendio medio basso, diciamo così, non supera i 600-700 euro al mese, quindi è molto poco. Beh, io ho parlato con una signora che lavora come commessa in un supermarket, a lei gli hanno tolto 160 euro dai 1000 che prendeva, cioè 160 euro è un 16%, insomma, ecco. Per questa mattina è tutto, vi ricordo che Italia in controluce torna oggi alle 13.30. Sono le 6:39 minuti e 40 secondi. Facciamo dunque il punto sulla riforma del mercato del lavoro e lo facciamo con la nostra Valeria De Rosa. Valeria, buongiorno. Buongiorno a te Simone e ai nostri ascoltatori. Allora, che cosa è emerso dunque? Diciamo che la situazione è piuttosto complessa, ma vedremo poi nel corso della settimana, perché intanto possiamo dire che giovedì è in calendario un nuovo incontro con le parti sociali, al termine del quale verrà redatto un verbale in cui l'esecutivo registrerà tutte le posizioni in campo e sarà poi questo il testo che andrà in Parlamento. E ieri che cosa ha detto il presidente Monti? Ha detto né oggi, cioè ieri, né giovedì ci sarà un accordo firmato con le parti sociali, perché, ha spiegato Monti, l'interlocutore principale del governo rimane il Parlamento, nessuno ha diritto di veto, e possiamo sentire le sue parole proprio a questo proposito. Pensiamo che per dare all'Italia più capacità di rispondere alla rapida evoluzione del mondo moderno fosse importante ammodernare il mercato del lavoro e nell'occasione anche ammodernare il modo di prendere le decisioni, che ripeto dà massimo rilievo a ciò che le parti sociali hanno da dire, ma non dà a nessuno il potere di veto. Per quel che riguarda i contenuti, partiamo dall'articolo 18, che è quello che è in prima pagina su tutti i giornali di oggi. Cambia, e cambia per tutti, il reintegro per i soli licenziamenti discriminatori, per i disciplinari ci sarà l'indennizzo o il reintegro. A questo proposito però bisogna registrare le parole del segretario della UIL, che ieri sera, ospite di Ballarò, ha affermato che anche nei casi disciplinari, ovviamente qualora venissero reputati dal giudice tali, sarà previsto solo il reintegro. Per i licenziamenti economici giudicati illegittimi solo l'indennizzo, ed è qui che si è consumata la spaccatura con la CGIL. Sentiamo Angeletti su questo punto e proprio sulla rottura con il sindacato guidato da Susanna Camusso. Però bisogna evitare che l'impresa abbia la possibilità di strumentalizzare, cioè di usare l'argomento economico come un paravento dietro il quale invece colpire per motivi di simpatia. Come abbiamo risolto questo problema? Dicendo che l'azienda è obbligata ad informare i rappresentanti sindacali della oggettività, cioè del fatto che effettivamente ha modificato l'organizzazione del lavoro, non c'ha più il lavoro per quelle persone. E ovviamente questo fa da griglia, impedisce che si possa utilizzare questo strumento per i motivi altri che dite questa cosa qua. Su questo caso, la CGIL ha detto no. Su questo la CGIL ha detto di no. Nel caso appunto dell'indennizzo, questo andrà da un minimo di 15 a un massimo di 27 mensilità dell'ultima, rispetto all'ultima retribuzione. Questo è un punto sul quale gli industriali hanno sollevato molte critiche, perché le ipotesi di indennizzo, secondo la presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, sono troppo alte. Capitolo ammortizzatori. Il nuovo sistema andrà a regime nel 2017. Il governo ha previsto risorse aggiuntive intorno al 1,8 miliardi. Il nuovo sussidio di disoccupazione, il famoso ASPI, assicurazione sociale per il lavoro, entrerà in vigore da subito, sarà universale e fino a un massimo di circa 1.119 euro al mese per 12-18 mesi, ovviamente parliamo di lordo. L'indennità di mobilità invece sarà eliminata definitivamente solo nel 2017. Restano in piedi sia la cassa integrazione ordinaria che quella straordinaria, però è esclusa la causale di chiusura dell'attività. Per quello che riguarda i contratti, l'abbiamo sentito, stretta sulla flessibilità in entrata, sono state completamente eliminate alcune forme contrattuali, mentre i contratti a tempo determinato saranno più costosi, le aziende dovranno pagare un contributo aggiuntivo dell'1,4% circa e non saranno possibili proroghe oltre i 36 mesi, quindi il contratto a tempo indeterminato dovrebbe diventare il contratto dominante e dovrebbe finire anche l'era degli stage gratuiti dopo laurea o dopo un master, perché la Fornero ha detto è un lavoro a tutti gli effetti e quindi come tale le aziende lo devono pagare. Si spera che ci sia anche, ed è quasi certo che ci sarà, la norma contro le dimissioni in bianco, che è stato uno strumento molto spesso utilizzato nei confronti soprattutto delle lavoratrici. Questo per quel che riguarda i contenuti. Ovviamente poi ci sono state tutte le dichiarazioni seguenti, quindi secondo la Fornero si tratta di una buona riforma che renderà il mercato del lavoro più inclusivo e più dinamico, molto positiva la CISL di Bonanni, un po' meno la UIL di Angeletti, sulla CGL abbiamo già detto, la Camusso promette battaglia. Per quel che riguarda gli industriali, comunque l'impianto è stato giudicato positivamente, anche se c'è ancora da lavorare, ha detto la presidente Marcegaglia. E grazie dunque alla nostra Valeria De Rosa per questo ampio punto, questa ampia pagina sulla riforma del mercato del lavoro, che come sentite non è ancora insomma evidentemente definitiva, ci sono ancora delle norme da definire. Noi ci sentiamo che cosa succede su strade e autostrade, poi faremo invece il punto sul blitz di Tolosa. Prima edizione. Le 6, 47 minuti e 35 secondi, facciamo adesso il punto sul blitz di questa mattina a Tolosa da parte delle forze speciali francesi. Ci colleghiamo con la nostra Katia Caramelli. Katia. Sì, buongiorno. Le forze speciali di polizia francesi hanno accerchiato un edificio, dentro c'è un uomo di 24 anni di origini pare maghrebine che sarebbe legato ad Al-Qaeda e che soprattutto sarebbe sospettato della strage di Tolosa. Testimoni riferiscono di aver sentito 6 o 7 colpi di arma da fuoco, i due poliziotti sarebbero rimasti feriti, in particolare uno ad una gamba, non ci sarebbero ostaggi. Il blitz si sta svolgendo non lontano proprio dalla scuola ebraica dove c'è stata la strage. L'uomo braccato era nel mirino dell'intelligence francese fin dai primi attacchi contro i militari nel sud della Francia e questa notte intorno alle 3 è scattata l'operazione per arrestarlo. E l'uomo, si è saputo poco fa, afferma di aver voluto vendicare i bambini palestinesi e di aver agito anche per vendetta contro gli interventi internazionali dell'esercito francese. Intanto l'aereo con le 4 vittime è atterrato proprio questa mattina in Israele, a Tel Aviv, e oggi alle 11 anche nelle scuole italiane si osserverà un minuto di silenzio per commemorare i morti di Tolosa. E per il momento è tutto. E grazie alla nostra Katia Caramelli per questi aggiornamenti che vi continueremo a dare ovviamente all'interno dei giornali radio e non solamente nel corso di tutta la mattinata. Quindi evidentemente, come avete sentito, la pista iniziale, che era quella dei neonazisti, è anzi completamente venuta meno. Sono le 6:49 minuti e 30 secondi, chiudiamo così prima edizione. Un ringraziamento come sempre a Peter Bescapè in regia, a Viola Bottoni in redazione, un grazie a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia, vi auguro una buona giornata, ci risentiamo tra poco naturalmente con il giornale radio.